E mentre il bicchiere si riempie, sento distintamente il suono dello sciacquone del bagno. E qualcosa non mi torna, e quindi salto su come un grillo, perché quello dei vicini non può essere, e quindi deve essere il nostro di sciacquone. E Natalie sorridente mi rassicura: no, no, tranquillo, abbiamo un ospite. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:05, quasi 6 minuti. Oggi è venerdì 1 aprile 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e ho detto tutto. E sono qui. Ospite. Dal latino ospitem. Deriva da hostis, straniero, forestiero, pellegrino, e pes, padrone, signore. Colui che riceve il forestiero e gli dà cibo, non per lucro ma per sola amicizia, per benevolenza o umanità, ma anche il forestiero medesimo che è alloggiato ed è protetto. Ci sono diversi tipi di ospiti. Ci sono ospiti che invitiamo a casa, sono ospiti che noi di solito corteggiamo, che incensiamo quando arrivano a casa nostra, sono quelli che per vari motivi ci fa piacere avere intorno a noi. Sono amici, sono parenti, magari sono persone importanti, però alla fine sono anche animali, sono cani, gatti. Cioè sono in qualche modo delle presenze che noi amiamo ospitare nelle mura domestiche. E questo è un tipo di ospite. È appunto quello che desideriamo ed è quello che aspettiamo. E poi c'è un altro tipo di ospite. È quello inatteso. È quello che ci ritroviamo in casa senza averlo voluto. Spesso senza che nemmeno sia stato invitato. Di solito sono amici di coinquilini, sono parenti del marito, della fidanzata, o sono fratelli di persone che sono capitate per caso da quelle parti. O magari è un cane anche, un cane che vostro figlio si è portato a casa e voi non solo non ve l'aspettavate, ma proprio non lo volevate. L'ospite inatteso stravolge la nostra quotidianità, mette in crisi le nostre certezze sul tempo, sullo spazio, e in qualche modo misterioso ci regala un'altra prospettiva sulle cose. Scopre delle parti di noi che non conoscevamo, ci fa prendere in considerazione delle ipotesi che non avevamo mai nemmeno fatto o delle soluzioni che non avevamo mai immaginato. Che si sia trattato di un collega, di un amico, di un ladro, di un parente o di un labrador, che lo abbiate tollerato oppure no, questa puntata è dedicata ai vostri ospiti inattesi. E il numero verde di Radio 24 è sempre quello, è 800240024 per chiamare in diretta, oppure 349-238-6666, li diamo tutte. Io sono qui, @radio24.it, oppure il profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. Avete presente di cosa sto parlando? Parlo di quella situazione in cui voi tornate a casa e vi trovate qualcuno che non vi aspettavate, oppure siete in casa e vi arriva qualcuno che non vi aspettavate. Ormai l'avete capito, quelle cose che, di cui parlo partono praticamente sempre dalla mia esperienza personale, per cui le cose che vi chiedo sono semplicemente le stesse cose che sono successe a me, ma che succedono a voi tutti i giorni o che sono successe qualche tempo fa. Io vi ho già parlato del viaggio dell'eroe, vero? Credo di sì. Il viaggio dell'eroe è praticamente questa struttura che si basa sul mito, sul fatto che negli antichi miti greci e non solo, c'erano ogni eroe faceva un viaggio. Faceva un viaggio per cui passava delle fasi, passava delle prove, lottava contro dei nemici, otteneva delle ricompense e poi se ne tornava a casa ed era una persona diversa. Quella struttura lì è la struttura appunto dei miti, ma è di fatto la struttura di qualsiasi cosa voi leggiate, vediate in televisione, al cinema, sentiate alla radio ad esempio, anche le storie che sono vere, quelle che sono finte, qualsiasi storia sia, si basa più o meno su quella struttura lì. La cosa interessante di quella struttura è che ogni storia che viene raccontata lì è un pezzo di storia dell'umanità. Le cose quindi che vi racconto alla fine sono esattamente le cose che capitano a voi. E quindi un pezzo della vostra storia è un pezzo della storia di tutti quanti. 800240024 349-238-6666. La storia di Grazia, ad esempio, un'amica finlandese che non vedevo da 7 anni. Monica, un gatto sconosciuto che ogni giorno si piazza davanti alla finestra della camera. Elisa, questa è un pochettino più elaborata. Ospite in attesa al mio matrimonio, l'intollerabile fidanzata da una settimana di un amico di mio marito. Semplicemente si è imbucata senza invito per non passare inosservata e è persino riuscita a farsi ritrarre in metà delle foto in pose da pin-up anni 50. Comunque ha scatenato l'ilarità generale, rendendo la giornata ancora più divertente. Questa è una lettura, diciamo, che dà Elisa. Poi c'è un'altra lettura. L'altra lettura è che questa amica era una gran bella ragazza, che era vestita in maniera molto succinta, che era piaciuta probabilmente a tutti i presenti al matrimonio e forse anche al marito della sposa. E quindi alla fine l'ilarità probabilmente era un pochettino amara. Margherita, i carabinieri, ospiti inattesi per notificarmi degli atti giudiziari che erano arrivati dalla Puglia a seguito di un'estate un po' sfigata. No, non è stata sfigata, qualcosa sarà successo. E poi Mary, l'ospite inatteso, si è presentato a casa di amici a Roma circa 15 anni fa. Rientrato dagli Stati Uniti e vittima del fuso orario, aprì la porta di casa senza badare troppo a chi fosse la persona che aveva suonato il campanello. La mattina dopo a colazione fermai: cavolo, ma la ragazza di ieri assomigliava da morire a Monica Bellucci. Risposta: era Monica Bellucci. Che amici c'hai, Mary? Che poi Mary è un uomo, Mary Kilic Marzari. Ha già scritto, credo che sia di origine turca, se non mi sbaglio. 80024 0024. Oggi si parla dell'ospite inatteso. Abbiamo anche tanto cercato di mandarvi un pezzo di quel film che è di, credo, 3 anni fa, ma non ci siamo riusciti. Però è un film che è uscito, che forse ha vinto anche qualcosa, Cannes forse, Venezia, o forse no, ma in fondo chi se ne frega. Ed è la storia di questo professore che vive a Manhattan. Un giorno torna a casa, perché è stato fuori, mi pare che la moglie sia malata, torna a casa e si trova proprio in casa una persona, anzi due. Sono un giovane ragazzo e una giovane ragazza, credo siriani, se non ricordo male, o della Giordania. Lui chiaramente prima li caccia, poi si fa impietosire, diventano amici e alla fine uno di questi viene cacciato. Forse tutte e due vengono cacciate. Beh, benissimo, ero proprio preparato per raccontarlo, questo film. Mero vera maestra, ma è comunque sempre un viaggio dell'eroe. C'è uno che arriva, deve superare delle prove. È un po' come il vostro viaggio dell'eroe. 80024 0024. Caterina, una zanzara fuori stagione. Vabbè, vale anche questo come ospite, che mi ha succhiato sangue per tutta la notte non facendomi dormire. Partita la caccia, si è volatilizzata. Marzia, l'ufficiale della polizia, che inaspettatamente mi ha riportato la targa dell'auto persa 2 mesi prima, per la quale avevo perso ogni speranza. Il numero è quello, per chiamare in diretta. Il numero per gli sms invece è 349-238-6666. Si parla di ospiti inattesi e se ne parla perché? Per questo motivo qui. Dunque, quando tra un uomo e una donna incominciano le ripicche e i musi, è finita. Cioè, non è finita la storia, no? Quella no, anzi, quella è appena cominciata. Quella che è finita è la pacchia. Oppure, per usare la metafora di un mio amico, che deve averla presa da Jung, probabilmente, si è rotto l'uovo. Cioè, si è rotto quel delicatissimo, quel perfetto equilibrio che contiene tutto il bene del mondo. Pulito, preciso, buono, nutriente. Ecco, si è rotto. Il guscio si è crepato. E quello che c'era dentro sta uscendo. Qualcun altro direbbe che è finito l'innamoramento, che se sei bravo puoi iniziare l'amore. Io dico solo che è finito il divertimento ed è cominciata l'era dei musi e delle ripicche. Che poi la vita è così, semplicemente che dà un po' fastidio. Tra me e Nathalie, con le storie degli ultimi giorni, il guscio dell'uovo si stava effettivamente crepando. Ed eravamo in due però a metterlo sotto pressione, sto maledetto uovo. Io perché avevo incontrato Giulia, anche se solo per dirle quello che si meritava e quello che pensavo. È nata lì perché aveva deciso che sarebbe andata a Gaza a fare la cooperante, ma poi mi aveva detto che era uno scherzo, ovviamente. Però ci aveva pensato, ci aveva ripensato e rimaneva con me, ma solo perché avevo fatto la faccia esterrefatta. Io e lei stiamo cominciando a parlarci un pochettino di meno, effettivamente, che va anche bene, perché dopo un po' le coppie si assestano e noi eravamo abituati a parlare in continuazione, e una pausa ogni tanto ci vuole anche per le cose belle. Però non pensavo che sarebbe stato così spiacevole. Ieri sono tornato a casa e lei non c'era perché sta facendo sempre quel suo volontariato nell'ONG, che non si sa mai da cosa nasce cosa, e fa bene, secondo me. Dovrà semplicemente evitare gente come Maurizio, ma è cresciuta, secondo me ce la farà. In effetti era da un po' che non parlava di questa cosa di Gaza. Io, siccome le donne un pochettino penso di aver capito come funzionano, non le conosco ma un po' ho capito, quando stanno zitte vuol dire che stanno pensando. E lì mi sono preoccupato. Ah no, un attimo, che non vuol dire che quando parlano non pensino, non sto dicendo questo, è semplicemente diverso. Quando stanno zitte le donne ci stanno proprio ragionando su. Perché è vero che sono multitasking, come si dice adesso. Col pensare però no, devono proprio fare quello, senza nient'altro in mezzo. Che pure gli uomini lo fanno, e anche di più, però loro in particolar modo. E allora ieri, mentre l'aspettavo tornare, ho deciso di prepararle il couscous, Originale sono, che era la mia maniera di dire che sono aperto a tutto in fondo, che le voglio bene lo stesso, che non è vero che non me ne frega niente del prossimo, anzi, i piatti arabi sono buonissimi, addirittura ho imparato a cucinarli, figurati. Un couscous di verdure, così nessun animale era stato maltrattato e siamo tutti felici. E mi metto a cucinare. intanto penso che potrei anche prendere un film. E allora esco, vado alla Blockbuster, e mentre le verdure si cuociono prendo un DVD di un film che si chiama La Banda. È un film che avevo visto al cinema, ma che farò finta però di aver preso solo per interesse verso il mondo arabo. Racconta la storia di una banda musicale di Alessandria d'Egitto che ospita in Israele per un concerto, ma che per errore si ritrova in un paese sperduto e viene ospitata da una famiglia del posto. Mi sembra di essere molto carino, mi sento bene, ed è proprio in quei momenti che devi essere preoccupato. Quando stai bene. Sorridente, anche se ha trovato la lavastoviglie da fare e il fuoco acceso sotto una pentola, che è una cosa che non si fa, anche se esci per un attimo, perché metti che poi stai male, ti succede qualcosa, e in aggiunta va pure a fuoco la casa. Io la bacio come per chiederle scusa, e già che ci sono, mentre le spiego che cosa buonissima sto cucinando, le racconto anche che splendido film sono andato a prendere per stasera. Lei è seduta e ascolta, è contenta, sembra serena, perché certe cose... non lo sai com'è, però come per magia a volte si sistemano. E allora finisco l'opera e le dico che mi dispiace per come avevo reagito alla storia di Gaza, che insomma ognuno deve seguire le proprie inclinazioni, no? Deve seguire le proprie attitudini. E quando vuoi bene a una persona devi lasciarla libera, come dice Sting. Che non vuole dire poligamia, eh? Anche se su questo poi ci sarebbe da parlare, ma non qui, non mi ci avventuro. Dico solo che è bello che uno possa esprimersi compiutamente anche essendo in coppia. Anzi, ha maggiore ragione se si è in coppia. E lei sorride. E io penso che ce l'ho fatta. Penso che ho fatto bene. Che lei è splendida e non andrà a Gaza, ma non sarà stato io a impedirglielo. Il massimo. E allora continuo a cucinare e le verso del vino. E mentre il bicchiere si riempie, sento distintamente il suono dello sciacquone del cesso. E qualcosa non mi torna, perché quello dei vicini non può essere, quindi deve essere il nostro di sciacquone, per forza. E Natalie mi guarda e sorridendo mi rassicura: tranquillo, abbiamo un ospite. E io allora con la mia bottiglia di Chianti da 3 euro in offerta all'Esselunga, comprata solo per lei ovviamente, vedo uscire dal bagno un tizio della carnagione scuretta che mi guarda sorridente mentre si asciuga le mani nel mio accappiatoio e mi dice: ciao Matteo, sono Samir, è una bella casa la tua. E io lo so che è bella, ma non so chi diavolo sei tu. Solo che non glielo dico, ovviamente. Le parole non mi escono. E allora ci pensa Natalie. Samir è un ingegnere tunisino, ha 25 anni. È scappato dalla Tunisia e si è rifugiato in Italia. Si è fatto 50 km di mare su un barcone. Poi non so come e non lo voglio sapere, è arrivato a Milano e l'ONG di Natalie lo ha accolto. E lei si è offerta di dargli un alloggio temporaneo. Casa nostra. E io dico... cose tipo, ma certo, figuriamoci, ci mancherebbe, poi ha voglia, la guerra civile. Lui mi porge il bicchiere per farsi versare del vino e mi ringrazia, è tutto in un italiano perfetto. Ottimo, dico io, anzi, meglio così, perché sulle porzioni del couscous, guarda, alla fine l'ho stato un po' abbondante. Che bella la solidarietà, no? Ah, e buon appetito. A second somebody set my soul on fire. Somebody set my home on fire. And the flames and the smoke laughed right in my face. The insurance company laughed at me too. Alanis, yes, I know what's ironic. Alanis, yes, I do. And somebody stole my naive kind of lifestyle. And somebody stole what was left to steal. I need plenty of kisses and a whole bunch of love. Whoa. So come kiss me and hug me. Come kiss me again. Come close and embrace me. So come lift me and throw me right up in the air. Come rock me to harmony. And vamos a besarnos, amigos. From their Jack Vegas machine, he said, pain is no longer my enemy. And I'm not afraid of pain no more. But hey, relaxation, are you running from me? Hey, relaxation, are you hiding from me? Can somebody tell me where to find relaxation? I look from my basement and down to the station. Feels like 2,000 Swedish miles away. Would you consider to come to me? If I told you I needed you to come to me tonight. Oh, come kiss me and hug me, come kiss me again. Come close and embrace me. So come lift me and throw me right up in the air. Come rock me to harmony. Vamos a besarnos, amigos. I need plenty of kisses and a whole bunch of love. Hug me, come kiss me again. Come close and embrace me. So come lift me and throw me right up in the air. Come rock me to harmony. Vamos a besarnos, amigos. So come kiss me and hug me, come kiss me again. Come close and embrace me. So come lift me and throw me right up in the air. Come rock me to harmony. Vamos a besarnos, amigos. Viola Bottoni, con solo la solerzia che una stagista di Radio 24 può avere, mi scrive: l'ospite inatteso, in inglese The Visitor, un film del 2007, tra i vari premi di Independent Spirit Award, il miglior regista Satellite Award, miglior attore in film drammatico, miglior sceneggiatore originale. Sì, mi sembra un po' di roba minuta, però, ma credo abbia vinto anche un Oscar, però, te la butto lì. No, non ha vinto l'Oscar. Benissimo, si parla di ospiti inattesi, non solo del film, ospiti inattesi di tutti i tipi, come quello di Tiziana, se si può chiamare ospite. All'uscita dalla doccia mi sono trovata faccia a faccia con un ladro entrato in casa. Teneva il cacciavite nascosto dietro la schiena. E mi domando, Tiziana, come tu l'abbia visto, se era nascosto dietro la schiena. Forse perché quando è scappato l'hai visto. Alla domanda: ma tu cosa ci fai qui? Ha risposto: ah, forse ho sbagliato casa, cercavo non so chi. E poi se l'è data gamba a tutta velocità. Era sicuramente un ladruncolo sprovveduto che non si aspettava che ci fosse qualcuno in casa, per fortuna. Non è il primo racconto che sento di persone che vivono questa esperienza orribile di trovarsi una persona in casa, magari anche dormendo, e chiedono: ma tu cosa ci fai qua? E questo scappa, forse perché a domanda diretta uno non sa cosa rispondere. 800240024, ma anche agli sms. Al mio matrimonio si è presentato un amico che non avevo invitato, ma il bello è che non mi ha fatto nemmeno il regalo. Francesco, questa te l'hai proprio legata al dito, l'ospite improvviso ed inatteso mio e di mia Silvia è un'adorabile micina nera che, a causa della sua malattia, ragazzi, cani e gatti sono arrivati a strafottero, oserei dire, anche se in fondo cani e gatti sono un pochettino più facili da accogliere, no, di un cristiano, di quello che è. Ospite inatteso, ad esempio, per Alessandro, ospite inatteso è un batterio che sta distruggendo le nostre piantagioni di pregiato kiwi. Alessandro, facci capire dove sei, dov'è che si coltiva il kiwi in Italia? Niente, non uno che ne sappia di agronomia dall'altra parte del vetro, ma non solo al sud, non è solo la Sicilia. Ospite inatteso e malvoluto, i pidocchi nei capelli della mia piccola Silvia presa all'asilo. Ce n'era, evidentemente è periodo, possibile che sia periodo di pidocchi? Esiste un periodo primavera? Forse, non, niente. Andiamo invece da Elisabetta da Monza. Pronto Elisabetta? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Dove sei? Sto guidando. Stai andando a prendere le tue figlie? No, no, le mie figlie sono grandi. Sto andando a Milano a trovare mio padre che non sta bene. Va bene, senti, tua figlia ha compiuto 18 anni. Sì, ha compiuto 18 anni a settembre. E mi ha chiesto di fare la festa, vabbè, come un po' mi sembra anche... Certo, anche perché 18 anni. Infatti, giustissimo. Solo che noi, io ho un marito mezzo spagnolo, quindi lei ha tanti, noi andiamo spesso in vacanza in Spagna e lei ha tanti amici di Barcellona. Sì. E quindi mi ha detto, mamma, sarebbe carino, l'ho già preso il biglietto con Ryanair, vengono in due o tre, li possiamo... Cioè, quindi era già fatto, diciamo, te l'ha piazzata, sì. Come... Ok. Era già piazzata, solo che i due o tre... Poi si sono animados, come si dice in spagnolo, si sono animati uno con l'altro e sono diventati in 12, no, in realtà 8. Poi ovviamente il fidanzato di mia figlia che voleva venire anche lui, mio nipote che voleva venire anche lui. Alla fine mi sono trovata in casa un'invasione barbarica. Di quante persone, scusami, più o meno? 12. 12 a dormire per tre giorni. Ma che casa hai, Elisabetta? Perdonami, non per farmi fatica. No. Ho una casa grande, ma assolutamente non per 12. Ho fatto un accampamento in sala, ho una sala molto grande, ho messo dei materassi, dei divani e... Com'è finita? Nel senso che hanno mantenuto un atteggiamento da 18enni o... No, guarda, a me hanno stupito soprattutto gli spagnoli, che devo dire hanno l'abitudine a fare le faccende domestiche, soprattutto i maschi, la mattina piegavano le loro cose, le mettevano a posto, apparecchiavano, mi chiedevano cosa dovevano fare, veramente impressionante. Le mamme italiane dovrebbero imparare. Dovrebbero andare a fare degli stage, le mamme italiane, dai figli a Barcellona. Sì, sì, assolutamente sì, si divertirebbero molto e magari... imparirebbero un po' come si educano i figli, che i nostri sono troppo viziati. Elisabetta, ti ringrazio moltissimo. Okay, ti auguro una buona giornata. Ciao, grazie. Te, ciao. Fabio mi scrive: in ufficio è arrivato in questo momento cliente che vuole tutto subito e non paga mai, quindi evidentemente lo conosce. Gli dovrei aggiustare gratis il portatile comprato altrove. Meno male che è venerdì. E l'ultimo, il fidanzato di un'ex coinquilina, figlio di papà, che doveva restare due giorni, anche lui un gran simpaticone, si è fermato due mesi gratis senza partecipare a nessuna spesa. Di solito però quando uno non partecipa alle spese basta provare a chiederglielo, ad esempio, no? Tipo, vatti a fare la spesa. Nella foto di oggi invece siamo a picco sul mare, su una scogliera grigia, brulla. Bella però, c'è della nebbia sullo sfondo, quindi si vede giusto un pezzo di scogliera che sarà alto 50 metri probabilmente, sotto il mare che ribolle, e in primo piano la faccia sorridente del protagonista della fotografia. Finalmente c'è qualcuno che si fa vedere in queste foto. È un giovane uomo con un cappotto blu, una felpa rossa, i capelli tagliati corti un po' male, tipo come se li fosse tagliati lui, la barba incolta, ma un viso contento. Alberto Schiavon, 26 anni. Mi trovo a Inismore, la più grande delle isole Aran, ad ovest dell'Irlanda. La scogliera sullo sfondo è un bellissimo luogo di contemplazione e riflessione risalente a 4.000 anni fa. Io sono qui. Io sono qui, @radio24.it. Aspetta che clicco su annulla, sennò cancello tutto sul computer. Io sono qui, @radio24.it, per continuare a mandarmi le foto. Tra l'altro, visto che in queste ultime puntate abbiamo dato ampio spazio a tutti i giovani adolescenti all'ascolto, se volete mandarmi le foto che riguardano la vostra stanza, il vostro banco, non so se possono scattare foto a scuola, comunque un pezzo della vostra vita, io sono qui, @radio24.it, oppure le caricate direttamente sul profilo Facebook, che è sempre quello. A questo proposito, visto che ogni tanto qualcuno continua a chiedermi quali sono i brani che mandiamo, ad esempio i brani di oggi, è arrivato anche un sms un attimo fa, c'è un sito che è il sito di Radio 24, che ha una pagina, che è la pagina di Io Sono Qui, e lì trovate in fondo alla pagina, oltre alla foto di cui vi racconto quotidianamente, ci trovate pure tutti i brani che noi mandiamo, oltre ai podcast che potete scaricarvi, insomma, andate lì, trovate tutto, anche il profilo del programma. Allora, qua mi dicono: i kiwi in Italia si coltivano in Emilia Romagna e in Veneto, si coltivano in Friuli e in Trentino Alto Adige, e invece Alessandro è dalla provincia di Cuneo. Pronto Alessandro? Pronto Matteo, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno, come stai? Ciao Matteo. Come stai Alessandro, tutto bene? Bene, bene. Sì, senti, sì, stavo lavorando sul trattore ascoltando la tua trasmissione che mi piace molto, quando riesco con la radio vi ascolto volentieri. Senti, spiegaci qual è questo problema dell'ospite inatteso, che in questo caso è un batterio che sta distruggendo batterio, i kiwi. Un batterio che a livello mondiale sta distruggendo le piantagioni di kiwi. Tra l'altro mi chiedono, mi è arrivato un messaggio che dice, sì, è lo sciarca il batterio dei kiwi? No, si chiama Pseudomonas. Pseudomonas, sì, che la sciarca è un'altra malattia legata all'albicocco. Che probabilmente in Veneto direbbero che il nome è azzeccatissimo per questa roba. Che cosa fa esattamente ai kiwi, Alessandro? Lo fa alle piante o ai frutti? Alle piante. Il più grosso produttore di kiwi in Italia è il Lazio, la zona di Latina, sì? Aprilia. Sì. Poi ci siamo noi in Piemonte e la Romagna, e dall'anno scorso questo batterio. Adesso si nota, è particolare perché le piante sembra che sanguinano, cioè la linfa che esce dalle piante è rossa, quindi un effetto anche un po' sì, è vero, ed è subito Discovery Channel. Senti Alessandro, ma come si è appalesato questo batterio? Come ti sei accorto? Nel senso che non nascevano i kiwi, le piante morivano? No, si è accorto che queste piante, da queste piante escono un essudato rosso che non... Ah, proprio questa cosa che mi dicevi. Senti, sì, cosa anomala, come lo si debella questo batterio? Beh, purtroppo al giorno d'oggi, da 2 o 3 anni che si è scoperto, non ci sono soluzioni, difatti... Ma quindi, scusami, tu sono 2 anni che non hai kiwi buoni da vendere? No, io qua è solo da questi giorni che si è trovato, ma in altre zone dove 2 anni... Che c'è, se la pianta muore non produce, quelle che sopravvivono il kiwi si può vendere. Quindi tu hai già fatto una stima di quanto perderai da un punto di vista economico a causa di questo batterio? Adesso la sto facendo, però vedo che giorno per giorno gli impianti, le piante peggiorano. Delle altre persone qui vicino a noi hanno già estirpato decine di ettari, ecco, nel Lazio si sono estirpati centinaia di ettari di kiwi. C'è un amico di Palermo che proprio ieri mi raccontava che c'è un batterio, credo che sia, chiamano punteruolo rosso, che fa la stessa cosa però sulle palme della Sicilia. Ma quello e le sta devastando. Credo sia un insetto, perché l'ho visto a Striscia la Notizia, allora è un'altra famiglia. Più cioè... facile, credo, a debellare, mentre questo non abbiamo nessuna arma. Senti Alessandro, ti faccio in bocca al lupo per questo ospite veramente inatteso. Buona giornata. Grazie e complimenti per grazie mille anche ciao. A te. Ciao. Alla festa del mio compleanno mi sono trovato un amico di un amico, venuto, mangiato, riuscito a bere gratis e poi se n'è andato, manco si è presentato. Però ste robe qua succedono, no? Capita, come infilarsi ai matrimoni. Uno credo che quando fa una festa lo metta in conto più o meno. Andiamo da Christian invece, da Carpi. Pronto Christian? Pronto Matteo, ciao. Grazie per essere qui Christian. Senti, raccontami questa cosa, questi ospiti inattesi. Non sei l'unico che mi racconta di forze dell'ordine come ospiti inattesi, però il tuo caso è particolare. Ma molto semplicemente, parliamo innanzitutto di una 20 d'anni fa, perché ero ancora in vacanza con i miei genitori, uh-huh. Io, mio padre, mia madre, i miei 2 fratelli più piccoli di me, quindi fai conto, io ho 16 anni, loro dai 15 ai 12, mm-hmm. Mattina alle 8 sentiamo bussare, mio padre apre canottiera e pantaloni del pigiama. Vacanza? Quindi, sì, vacanza. Apre, si trova di fronte una decina di poliziotti, armi in pugno, che entrano, prova solo a pensare la nostra reazione. Certo. Mia madre che si mette a piangere, e questi cercavano fondamentalmente gli inquilini precedenti della casa dove eravamo in affitto, che poi abbiamo scoperto chiedendo erano spacciatori di droga. E quanto tempo prima erano stati in quella casa però? Ma non da tantissimo, perché tra l'altro quando il primo giorno che arrivammo in quella casa contattavamo il padrone di casa, perché dentro gli armadi c'erano ancora dei vestiti. Ah, ok. E quindi okay. Probabilmente erano scappati. Erano proprio scappati. In fretta e furia. Sì, eravamo lì tra l'altro da un paio di giorni. Noi. C'era il fuoco ancora caldo. Christian, sì, il fuoco ancora caldo. Ti ringrazio molto. Buona giornata. Grazie a te. Saluti i Barisoni. Ciao, guarda, lo saluto più tardi quando lo incrocio che entra. Ciao, buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. 16 anni fa, mi scrive Tommaso, Strasburgo, 5 del mattino. Alla porta della mia camera bussa qualcuno. Io chiaramente non sento nulla e continuo a dormire. La mia ragazza si sveglia, controlla alla porta e imprecando in svedese, immagino che fosse svedese, non che la mattina presto un impreca in svedese, mi butta giù dal letto urlando, mi dice che fuori c'è una ragazza italiana che piange. Era una mia amica che aveva fatto una gran boiata, della quale si vergognava e sentiva il bisogno di confidarsi con qualcuno. In realtà non era niente di così grave. In compenso la svedese mi ha accusato per giorni di averla messa incinta, proprio non riusciva a capacitarsi che qualcuno si potesse precipitare in maniera inattesa a casa di un altro durante la notte, per un motivo che non fosse quello, cioè quello che era rimasto incinta. 800240024. Tra l'altro, la foto Tommaso ha pubblicato sul profilo Facebook, credo, l'edificio in cui dormiva quella notte. È andata a vederla, ha messo la foto proprio un attimo fa. Andiamo da Katia da Torino. Pronto, Katia? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, tutto bene. Che cosa fai nella vita, Katia? Io faccio la commessa in un centro gioco educativo e poi come volontaria lavoro anche in un ONG. Quindi... Brava, che ONG è? È NutriAid a Torino, non so se... Ma che cosa fa? Ma si occupa di centri nutrizionali in Africa e qui in città, diciamo, fa educazione alla nutrizione, soprattutto nelle scuole primarie e secondarie. Invece, scusami Katia, ma non ho capito, commessa in che cosa, in che negozio lavora? Imaginarium, sicuramente lo conoscete, è un negozio di giochi educativi. Ah, ok, giochi educativi per bambini, non so. Ma tipo La città del sole, quella roba lì? È simile, solo che diciamo la materia prima utilizzata è più la plastica rispetto al legno. Ah, ok. Oddio, quindi in teoria sono meno buoni? No, ma... al contrario. No. Questa qualità e sicurezza è una plastica studiata apposta, soprattutto per la prima infanzia, quindi un'ottima qualità. Katia, ma in fondo anche chi se ne frega di plastica e legno? Noi stiamo parlando di ospiti inattesi, giusto? Esatto. Quindi raccontami la tua di storia. Ma allora, più o meno 6 anni fa io vivevo da poco da sola, se n'era appena andata la mia coinquilina storica, mitica coinquilina, e quindi cercavo un'altra coinquilina, ho avuto la brillante idea di cercarla, diciamo, tra le studentesse di prima classe dell'università e mi sono ritrovata in casa con una figlia di papà di cui non ricordo neanche il nome, perché l'ho rimosso nella mia... Ma come l'avevi trovata questa? Tramite annuncio. Ah, ok, semplicemente in bacheca. Esatto, sì. E si era trasferita da me, me ne aveva già combinate 2 o 3 simpatiche, ma vabbè, ho detto vabbè, è giovane, quindi ho tacitato con un paio di cose e poi a un certo punto un giorno torno a casa e me la ritrovo con un letto in più nella sua stanza e questo bel fidanzato dal sud in stanza, al che le dico: ah, ciao, ma c'è il tuo fidanzato? Sì, te lo presento, ma senti, sto solo un weekend. Ho detto: vabbè, non c'è nessun problema. Quanto sei fermato? Si è fermato 2 mesi. Benissimo, e non ha fatto neanche la spesa, vedevo. Esatto. E questa della spesa è veramente una cosa che brucia effettivamente, perché o arrivi a scrivere i nomi sulle etichette nel frigorifero oppure facciamo che dividiamo almeno. Tra l'altro Katia, tu vedevo che mi scrivevi un PS. Sì, le donne in silenzio pensano, ma pensano. È troisiano, ma pensano. Katia, grazie mille, ti auguro un buon fine settimana. Grazie anche a voi, ciao. Ciao, grazie. Facciamo in tempo a sentire un'ultima ascoltatrice che si chiama Vittoria. Pronto, Vittoria? Pronto? Pronto. Ciao, Vittoria. Ciao. Ciao, quanti anni hai, Vittoria? Ho 12 anni. Hai 12 anni, di dove sei? Sono di Milano. Senti, ma Vittoria con la C? Sì, con la C. Come mai? Non lo sappiamo. Niente, Vittoria, è di poche parole. Raccontami qual è il peggior ospite che hai avuto in casa. In pratica, quando eravamo con i miei genitori fuori, è arrivato un signore che non conoscevo neanche e si è messo a salutare tutti, a baciare. E io dico, chi è questo? Non lo so. Ma scusami, ma era un amico dei tuoi genitori però? Sì, era un amico, si chiamava Giancarlo. Si chiamava Giancarlo, sappiamo anche il nome, non diciamo il cognome. Però fondamentalmente ti dava un po' fastidio il fatto che questo baciasse, sì, salutasse molto, e che tu e non lo conoscessi. Che classe fai, Vittoria? La seconda media? Sì, faccio la seconda media. Ma hai la televisione accesa in casa però? Sì, aspetta. No, non spegnerla, figurati, non c'è nessun problema, volevo solo sapere cosa stavi guardando. Ecco qua. Sì. Vittoria, cosa stavi guardando? È andata a spegnerla, Vittoria. Dire la verità, stavo ascoltando il programma. Beh, però anche con la TV, sei multitasking, Vittoria. C'avevi anche un iPad in mano già che c'eri. No. Vittoria, ti ringrazio molto, ti auguro un buon fine settimana. Grazie. Ciao, grazie a te. Ciao, ciao. Vi leggo un ultimo racconto che riguarda un ospite inatteso di Luisa. Nel 1987 avevo 18 anni e avevo un'unica amica di penna, in Portogallo. Si chiamava Manuela. Con lei intrattenevo un'assidua corrispondenza in francese. Aveva avuto il suo indirizzo dalla mia prof di francese, che proponeva programmi di amicizie virtuale con ragazzi e ragazze coetanei per migliorare ed esercitare la lingua. Un giorno, a cavallo tra Natale e Capodanno, verso l'ora di pranzo, suonò il citofono. Vidi comparire due tizi sconosciuti di mezza età che parlavano in modo per me incomprensibile, ma con un fare allegro ed educato. Dopo una buona manciata di minuti riuscimmo a capire chi fossero. Uno dei due, quello che provava a farsi capire meglio, era il papà della mia amica portoghese e il signor accanto era un suo collega di lavoro. Ci spiegarono che di mestiere facevano gli autisti di Pullman Gran Turismo e stavano accompagnando un gruppo di turisti portoghesi in viaggio a Roma per le vacanze di Natale. Lui sapeva, si ricordava, che la figlia aveva questa amica di penna vicino a Roma e con il suo collega aveva approfittato di una pausa lavorativa e con tanto di cartina avevano preso i mezzi pubblici per arrivare fino a casa nostra. Senza avvertirci, né lui né la figlia, semplicemente per salutarci e conoscerci. Fu una grande emozione. Naturalmente li invitammo a pranzo. Parlavano solo in portoghese e dopo un'oretta circa mi accorsi che loro due e mio padre si stavano facendo delle grandi chiacchierate e delle grandi risate. Non so se per via dell'ennesimo bicchierino di grappa o per il fatto che loro parlavano la loro lingua e mio padre la sua, cioè il sardo. Andarono via verso le 4 o le 5 del pomeriggio con grandi saluti, abbracci e ancora risate. Ancora grazie e via dai loro turisti. Stefano D'Andrea, Roberto Scaltritti, Tiziano Bonini e Viola Bottoni, sono di là dal vetro. Ultima informazione, domani a Cisterna di Latina ci sarà una manifestazione proprio per parlare del problema dei kiwi. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?